Sono mezz'ora chiamandoti. Qui, e Betty, allora. Buona. Ma sai che stavo chiamando con l'altra radio e non usciva quel microfono? Non usciva il microfono, ma le mi dicendo. Ero mezz'ora, vabbè, sì, ho dovuto cambiare radio. Faccio una prova, te richiamo. Vai. Basso, ti copio, tocca quel cavetto dietro. Dietro nell'attacco, quel da, con l'attacco LAN. No, c'è il segnale, ma non sta uscendo di radio. Guarda un po', non adesso un pochettino. Passa con l'altra un attimino, passa. Guarda ora. Sì, adesso va bene. Com'è questa radio? È buona? Boh, io non lo capisco da cacchio questo microfono. Sì, è buona. È il mic originale questo qua, eh. Beh, no, non c'è amplificazione, sento quella della familiare, però ti fa la modulazione un po' grossolana, diciamo, dai, ma non è amplificata, non è spinta. Adesso vediamo così, aspetta. Molto grossolana, capito, molti bassi. Guarda questa qua a vedere com'è. 10, va bene, migliore, è ottima, lascia quella. Sì, Masco, lascio questa qua, però il compressore è attaccato, non lo so, aspetta che passo un attimino in uniforme, sarà bravo, che devo fare una prova. Vai, uniform. Sì, uniform. Allora, vediamo un po', qua per salire di qua, devo fare, devo sollevare, prova, allora, vediamo un po', prova radio, qua devo sollevare ancora la potenza, prova radio, 1, 2, prova, uscita, vediamo un po', prova radio, ehi, prova radio, 1, 2, test, prova, vediamo un po', scusami un attimino, che sto guardando questa cosa qua, prova radio, 1, 2, prova radio, ehi, prova radio, com'è? Però non so quello che segnale perché 9,5 è bassa di modulazione. Allora vabbè, confronto l'FM sì, ho dovuto alzare il volume. Ok, allora adesso ho messo il sto provando un attimino il mic gain. Vediamo un po', allora qua devo darle un po' più di uscita, così vediamo un po', prova, prova radio, prova, ok, perfetto, prova e riprova, vediamo un po', prova radio, prova, adesso lo vedo che sta spingendo, prova radio, adesso devo abbassare un pochino la i parametri per l'ingresso all'amplificatore, così evito di, se lo vuole, Sale a cose danno, Ok, prova, sì, questa cosa mi fa danno, se la piglia, se la prende dove non batte il sole, perché io in pratica dovrei andare così, no? Dovrei andare così per usare la FM, per, sì, lo so che va bene così, però è basta, è basta, basta di potenza, fate un FM. Taglio suo e deve fare così, e devo togliere il compressore per andare bene, devo togliere il compressore, abbassare questo, aumentarli un po', e così dovrebbe andare bene, e così dovrebbe essere perfetta. Così va bene, sì. E lo so che va bene, addirittura così ancora meglio, e dai, però mi devo tenerla così. Adesso cambio un attimino il microfono, guarda. Proveggia, che giornata oggi, porca miseria. Qual era meglio, questo o quello di prima? Guarda un po'. Questa radio è molto più pulita, questa è molto più pulita, vero, lo so. Questo qua è... questo è il gelato... questo è un Newman. Questo qua è un Newman, un microfono da studio. E... non lo so, secondo te cosa devo fare? Allora, l'altra era un pochino più spinta, però avevi quella sorta di amplificazione che magari andava a spingere... questa invece è più naturale. Sì, dimmelo là. Dimmi la cosa quando basta, che ti faccio sentire una cosa e poi mi dirai va bene o va male. Allora, questo qua, guarda cosa succede se io faccio questa cosa qua, esatto, quindi questo qua è il livello, in pratica l'equalizzatore ha bande diverse, no? E io sto sollevando la banda delle medio-basse, l'amplificazione delle medio-basse. Tu pensi che io facendo questa cosa qua, ecco, vedi che le alte frequenze non le devo toccare. Poi vado a limitare la mia uscita audio anche. Io posso anche andare a limitare la mia uscita audio. Perfetto. Poi un'altra cosettina. Se faccio così e faccio così, mi si sporca o cosa fa? Si è sporcata? Guarda un po'. No, non si è sporcato. Io non ho fatto niente di... Non è toccato, ecco. Però dovrei aver schiarito un po' la voce. Mentre... adesso aumento tutto e... sì, è vero. Però, dai, la lascio così, cosa dici? Sì, dai. Perfetto. Già va bene. No, è appena tocchi appena, ma lo fa subito, Sì, va subito a prendere e a mandarla, questo qua dovrebbe prendere anche meno rumore di QRA, lo sai? No, non ho notato adesso, sinceramente non ho notato, prova a vedere, schiaccia. Diciamo che già si sente appena sento la televisione. È altissima, qua sembra che non si senta una televisione da 150 anni, è altissima la televisione, quindi niente, ti volevo dire, come mai giornataccia Ati? Hai lavorato anche oggi? No, sono uscito stamattina per fare delle cose con Nicolas, comprarsi un po' di roba da vestire. Ma a parte che stava piovendo, poi giro lo sguardo, ho visto un tappo di un pozzetto alzato, praticamente sicuramente la fogna, lo scheletro del lavandino della cucina e qualche tubo intasato, quindi una mattina mi toccherà spaccarmi la schiena con un tubo lungo da 40 e cercare di liberarlo. Oggi non ho dato tempo perché sinceramente stava piovendo e non volevo stare in mezzo all'acqua, e te la fanno Napoli, vuol dire che quando lavo i piatti l'acqua se ne va nel giardino, non fa niente. E se poi domani piove rimarrà così. No, l'avevo già cercato di liberare una volta con un getto, era pulivapor, ma senza avere nessun tipo di miglioramenti, dai, diciamo. Ho migliorato spingendo con un tubo da 40, che è mai duro, capito, non è che sia una cosa insomma un po' laboriosa, e poi mettergli l'acqua dentro e cercare di levare tipo il tubo, dai, diciamo. Io non so perché stia facendo così, Sì. Qua anche io sono un po' così con la fossa settica, anch'io sono un po' così con la fossa settica, quindi siamo risolto con l'acqua, però anche io sono un po' così con la fossa settica. Considera che io ho un tiraggio forzato, quindi non devo anch'io rivedermela. Tutte queste cose qua. E poi domani, se riesco, devo fare quel lavoro all'asciugatrice, perché oggi mi ha detto che non sta asciugando bene, quindi domani quello devo farlo sicuramente. Devo scendere l'asciugatrice, attaccare la pulivapore e fare quel lavoro. Mi porterà via tutta la mattina. Beh, non ne manca mai, non si tira mai un sospiro di sollievo in queste cose. Comunque, mi hanno chiamato che è pronto, sono sedute a tavola. Ma dopo entri? Sì, sono qua, chiama. Ma io ho provato a pulirla, però con l'aria, non ha cambiato niente. Poi mi stavano dicendo che forse è la scheda, forse è quella, adesso martedì chiamerò un tecnico perché non trovo neanche più la garanzia. A novembre mi sono presa, o a dicembre, primi di dicembre, mi scade, diciamo, fra qualche mese la garanzia. Solo che non trovando lo scontrino, è difficile. Va bene, vai, sentiamo un po' il limite. Ma l'hai pagata col contante, scusami, ma col contante o bonifico gli avevi fatto? No, con la carta l'ho pagato. Allora rintraccia il pagamento e quella è garanzia, No, forse lo ti chiedono lo scontrino. Per scontrino di ISO. Cioè, dovrebbe andare. Tu vai e gli dici, guarda, io so questa cosa qua, l'ho pagata, l'ho presa, perché a loro gli interessa, sì, lo scontrino fiscale, ma gli interessa il pagamento quando tu l'hai acquistata. Quindi fai una piccola ricerca e vedi se vige questa cosa qua del bonifico. Beh, è sempre una cosa fiscale. Ne dubito, comunque ci provo. Vabbè, dai, vai, già sono qua. Guarda, ecco, l'affare ce l'hai in macchina. Guarda che c'è nella macchina tua quell'affare. Che l'avevi tenuto in macchina. Non lo so, perché poi avevo preso anche quello per appoggiare la asciugatrice sopra la cosa, che avevo pagato 50 euro, però già non ne volevo e adesso lo ritorno, però continuo, mi ricordo se l'avevo messo lì, guardato non c'era. Non lo so, magari domani faccio una scappata in macchina e provo a togliere anche quello se riesco. Te lo dico per certo perché l'avevi detto tu, ho detto lasci in macchina perché è una sorpresa. Comunque, controlla, guarda che è lì. Se lì già è nei documenti della macchina. Grazie per avermi risvegliato un ricordo, se è quello, speriamo. Andamex, dai, ci sentiamo dopo. Yes, ti chiamo là. Ciao, ti a dopo. Sì, ce l'ho acceso.